Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus sale a 219 il numero dei contagi in Italia, la quinta vittima è un uomo di 88 anni, possibile svolta nella ricerca del paziente zero, un agricoltore di Voe Euganeo che era stato a Codogno, in corso gli accertamenti. Riparte il traffico al Brennero, anche la Germania conferma frontiere aperte con l'Italia. Timori invece per le ricadute economiche pesano sulle borse europee, risale lo spread, Milano affonda del 4%. Elezioni americane, Bernie Sanders vince anche le primarie del Nevada, nomination più vicina. Sport, il comitato per le Olimpiadi di Tokyo assicura i preparativi vanno avanti, per ora i giochi sono confermati. Stop invece al campionato italiano di pallavolo. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24, effetto giorno alle 13:01. Cominciamo naturalmente dalle notizie sul coronavirus in Italia, anche perché in questi minuti è in corso l'aggiornamento del commissario per l'emergenza Angelo Borrelli con tutti i dati aggiornati. Allora ci colleghiamo con il nostro Alessandro Arona. Ciao Alessandro. Sì, buongiorno Alessio, come dicevi il capo della protezione civile e commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ha fornito poco fa gli ultimi dati sul contagio nella conferenza stampa che da ieri si svolgerà tutti i giorni alle 12 qui nella sede della protezione civile a Roma. Dunque i casi di contagio, come dicevi, in Italia sono saliti a 219 e si è registrato un quinto decesso. Dunque dopo il quarto morto, che era l'uomo di 84 anni deceduto nella notte nell'ospedale di Bergamo, è deceduto invece stamattina un uomo di 88 anni, era anch'egli ricoverato e con precedenti patologie. L'uomo era di Caselle Landi, che è un paesino vicino a Codogno ma è fuori dalla zona interdetta. Dunque restando i numeri, 219 contagi, di cui una persona guarita che è sempre il ricercatore 29enne che veniva dalla Cina, 5 morti e 213 quindi attualmente contagiati. Di questi 213, 23 sono quelli in terapia intensiva, sono dunque i casi più gravi, 91 sono ricoverati con sintomi e 91 sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno sintomi. Circa le regioni, la Lombardia è sempre in testa ed è salita a 167 casi, il Veneto 27, l'Emilia Romagna raddoppiata a 18 casi e 4 in Piemonte. Ma sentiamo su questo il commissario Borrelli. Confermo che i focolai sono ancora quelli, ci vengono date indicazioni che i focolai siano ancora quelli. Non è confermato, ho letto anche io una notizia di stampa in cui sembrerebbe essere stato individuato un collegamento tra il focolaio dell'Odigiano e il focolaio del Padovano, ma io non ho conferma dalle strutture regionali competenti di questa cosa. Dunque Borrelli ha confermato che le zone di contagio sono sempre quella di Codogno, sì, nell'Odigiano, e di Voe Euganeo nel Padovano, quindi gli altri contagiati in Piemonte e in Emilia Romagna avevano avuto tutti i contatti con le zone contagiate. Dunque Borrelli poi ha detto un'altra cosa importante rispondendo poi alle domande, e cioè sì, che c'è un'esigenza forte che probabilmente il governo punterà anche a rafforzare di coordinamento tra le iniziative dei vari comuni, delle regioni, tra le regioni già è attiva ma ci sono alcuni comuni che fanno ordinanze autonome e Borrelli ha detto che questo può provocare confusione e disorientamento, quindi probabilmente ci saranno indicazioni unitarie su questo. Nessun risultato ancora sulle due ipotesi di contagiati a Nettuno e è ancora in corso la riunione col presidente Conte, quindi ci aspettiamo novità probabilmente a breve. Grazie Alessandro Arona, molto importante la notizia del fatto che i contagi fuori dalla Lombardia e probabilmente anche dal Veneto a questo punto risalgono tutti ad un unico focolaio, ad un unico epicentro. Dicevamo, Lombardia e Veneto sono le regioni più interessate dal contagio, oggi scuole chiuse, molti uffici, si lavora da casa, per tutti gli altri la vita prosegue più o meno normalmente. Come abbiamo sentito, il contagio a Voe Euganeo sarebbe stato originato da un agricoltore che era stato a Codogno, sentiamo. A Voe Euganeo la situazione è surreale, il piccolo comune di 3.200 abitanti sui colli euganei è letteralmente blindato. Da oggi, perché sono stati effettivamente attivati stamane i blocchi ai varchi del comune, e nessuno può uscire per un minimo di 15 giorni fino a data da destinarsi. E intanto montano le lamentele affidate ai social da parte dei cittadini. Molti erano pronti stamane ad effettuare il tampone, ma le operazioni proseguono a rilento. In moltissimi si sono recati nel centro di controllo allestito in paese, ma i tamponi a disposizione scarseggiano. Il sindaco Giuliano Martini fa sapere ai nostri microfoni che oggi si procederà con il test su 250 persone di Vocentro e nei prossimi giorni nelle frazioni, non su tutta la popolazione per ora, ma sui possibili casi di esposizione e su chi presenta sintomi influenzali. Il sindaco accenna anche ad una probabile, e sottolineiamo probabile, svolta nella ricerca del paziente zero di Vo, un agricoltore di circa 60 anni di Albettone, comune con Termine della provincia di Vicenza, esperto in agricoltura biologica, che è stato a Codogno e in altri centri dell'Lodigiano nei giorni scorsi per partecipare ad alcune conferenze e che presenta sintomi influenzali. L'uomo è stato portato all'ospedale di Vicenza per essere sottoposto a tampone. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a livello globale, intanto l'epidemia di coronavirus ha raggiunto quasi 80.000 contagi, oltre 2.600 vittime, il 95% dei casi sono tuttora concentrati in Cina, il secondo paese la Corea con 450 casi. In Cina la buona notizia è che i nuovi contagi sono in calo, ieri sono stati 490. E sulla ricerca di un vaccino e sui medicinali, a che punto è la ricerca? Sentiamo. Mentre i casi di coronavirus anche in Italia aumentano, continua la corsa per la messa a punto di un vaccino. Attualmente non esistono terapie specifiche, ma solo cure sperimentali. Sulla base dei dati finora disponibili, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha suggerito una terapia antivirale utilizzata anche allo Spallanzani di Roma e basata su due tipi di farmaci. Uno è l'Lopinavir-Ritonavir, un antivirale utilizzato per l'HIV, e l'altro è Remdesivir, sempre un antivirale già usato per l'Ebola. In Cina, per la cura sperimentale, si utilizza invece il plasma dei pazienti guariti, che pare stia dando buoni risultati, e per questo le autorità chiedono di donarlo. Passi avanti comunque si registrano anche sul fronte del vaccino, anche se per la sua disponibilità si dovrà ancora attendere vari mesi. Nei giorni scorsi la Cina ha annunciato i primi test sugli animali e ora è la volta dell'Australia, dove si è conclusa la sperimentazione in laboratorio del vaccino candidato. Ad annunciarlo è stato un team di ricercatori dell'Università del Queensland che stanno per procedere con la sperimentazione sugli animali. Servono però ancora numerosi test per garantire che sia sicuro e crei un'efficace risposta immunitaria. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saranno messi in quarantena all'hotspot di Pozzallo anche i 276 migranti arrivati ieri con la Ocean Viking, 15 giorni di isolamento anche per il comandante e l'equipaggio che resteranno a bordo della nave. Ed è ripartita la circolazione al Brennero verso l'Austria dopo un iniziale stop alla frontiera italiana. La rapida diffusione del coronavirus in Italia è seguita con attenzione dai paesi confinanti e dai partner europei. Al momento però a Bruxelles non sono arrivate richieste di sospensione del trattato di Schengen. Le frontiere restano dunque aperte. A farlo sapere è il commissario europeo alla gestione delle crisi, Janez Lenarčič. Con l'Europa non cambia nulla, assicura anche il premier Conte. La Svizzera oggi ha fatto sapere che non ci sono limitazioni agli ingressi dal nostro paese, mentre la Germania non prevede di chiudere le sue frontiere. Dopo un blocco di alcune ore, ieri sera l'Austria ha ripristinato i collegamenti ferroviari con l'Italia, la Romania ha disposto la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto, la Croazia ha deciso di sospendere le gite scolastiche nel nostro paese. In Francia, intanto, un autobus in arrivo dal nord Italia è stato bloccato a Lione dopo l'allarme di una passeggera preoccupata per le condizioni di salute dell'autista. A Mauritius, infine, le autorità locali hanno fermato una settantina di passeggeri provenienti da Lombardia e Veneto arrivati con un volo Alitalia. Ai nostri connazionali sarebbe stato chiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto coronavirus anche sui lavori dell'Aula della Camera. Le opposizioni in apertura della seduta hanno chiesto di far slittare il voto sul decreto intercettazioni per dare spazio invece alla discussione alla conversione del decreto sull'emergenza approvato sabato sera dal governo. L'emergenza è quella del coronavirus naturalmente, ma il calendario è stato confermato. Prima dunque le intercettazioni, poi il decreto che andrà convertito entro il 29 febbraio. La cronaca, un ventenne, Paolo La Rosa, è stato ucciso a coltellate stamane verso le 4 nei pressi della discoteca Millennium a Palermo. Il ragazzo è il figlio del titolare di un ristorante a Cinisi, è stato colpito all'addome e al collo all'uscita della discoteca. I carabinieri indagano, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. All'estero ora andiamo prima di tutto in Siria, dove ci sono stati raid russi e governativi stamattina sulla regione di Idlib. La Turchia invia rinforzi militari a Idlib dopo che anche stamattina si registrano intensi bombardamenti nella zona nord-occidentale. I raid targati Mosca e Damasco hanno interessato i distretti dove sono presenti militari turchi nei pressi di Marakeb e Marat al-Numan, a est e sud-est del capoluogo di Idlib. Sabato il governo turco aveva annunciato l'uccisione di un altro soldato di Ankara nella regione, coinvolta da dicembre nell'offensiva governativa e russa contro gruppi armati filoturchi. Soltanto ieri Israele aveva portato avanti dei raid a Damasco. Secondo fonti israeliane erano morte 6 persone, miliziani jihadisti. Il raid ha preso di mira la zona di Kishwa a sud di Damasco, già in precedenza colpita da attacchi attribuiti a Israele e diretti contro basi e depositi di armi dell'Iran e dei gruppi palestinesi e libanesi alleati della Repubblica Islamica. L'emergenza umanitaria, intanto, secondo l'ONU, ha spinto 900.000 persone a fuggire verso la frontiera turca, creando la più grande ondata di profughi in 9 anni di conflitto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti invece è una nuova tornata delle elezioni primarie dei democratici per la selezione del candidato che poi sfiderà Donald Trump e avanza Bernie Sanders. Bernie Sanders ha stravinto le primarie democratiche in Nevada, secondo le proiezioni della CNN, nello stato in cui fino a gennaio era in vantaggio nei sondaggi il candidato moderato Joe Biden. Sanders, a scrutini ancora in corso, finora ha raccolto il 46% dei voti e ha distaccato di oltre 20 punti Biden, fermo al 22%, seguito da Buttigieg al 14% e da Elizabeth Warren con l'8%. Il vecchio senatore del Vermont, come lo chiamano i suoi sostenitori, il nonno rivoluzionario, tra i candidati democratici quello che ha il programma più radicale spostato a sinistra e ha il maggior seguito popolare. In Nevada ha raccolto i voti della grande comunità dei Latinos grazie a una imponente campagna di pubblicità in spagnolo, nelle TV, nelle radio, nei social media e anche nei servizi di streaming musicali come Spotify e Pandora. Dopo i risultati positivi in Iowa e la vittoria in New Hampshire, per Sanders quella del Nevada è la terza vittoria su 3 stati dove finora si è votato. Trump e i suoi amici, ha commentato Sanders dopo il voto, pensano che vinceranno le elezioni di novembre, dividendo le persone per il colore della pelle, per il luogo dove sono nati, per la loro religione o il loro orientamento sessuale. Invece noi vinceremo perché facciamo esattamente il contrario. Uniamo le persone e mettiamo insieme la gente. Riccardo Barlam, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E siamo allo sport. Intanto una buona notizia, i preparativi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano come previsto. Le rassicurazioni arrivano oggi dal Comitato Olimpico Internazionale sui giochi in Giappone a proposito della emergenza coronavirus. Sport, quindi, è con noi Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Allora, che cosa resta in piedi invece dello sport italiano in questa situazione qua? Beh, resta in piedi, fa molta incertezza perché non si sa bene come si svilupperanno da qui in poi i campionati, siamo in una fase, e neanche le coppe, siamo in una fase cruciale. Però a proposito di momenti cruciali, oggi ne avremo anche uno di tutti i convocati e tutti i nostri ascoltatori, perché sarà con noi per tutta la durata del programma e qui in studio Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che risponderà a qualunque tipo di domanda, ci ha tenuto a precisarlo, lo ringrazio già da ora, e nostra, mia di Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, Marco Bellinazzo, ma anche degli ascoltatori via WhatsApp, e già l'invito 349-238-6666, quindi siamo in attesa di... Abbiamo già apparecchiato, spolverato, disinfettato. Aspettiamo lui. Aspettiamo di capire cosa dirà su tutti, certo, i temi che riguardano il mondo Juventus, il calcio italiano e anche quello internazionale. Appuntamento naturalmente dopo il giro delle 14. Grazie Carlo Genta. Noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie. Riprenderemo facendo il punto proprio sull'emergenza coronavirus in particolare. Cercheremo di capire quanto livello di preparazione c'era e c'è negli ospedali italiani, tenendo presente che sembra confermato che il focolaio dell'epidemia a Codogno è concentrato proprio all'interno dell'ospedale, e anche di una dichiarazione di questa mattina dell'Ordine dei Medici di Milano che conferma, sì, le mascherine per i medici di Milano e di Lodi sono in arrivo, i guanti no, quelli ce li procuriamo noi. Può essere questo un livello di preparazione di un paese come l'Italia di fronte a un'emergenza sanitaria come quella che stiamo affrontando? Ne parleremo con il Carlo Palermo, segretario nazionale del sindacato dei medici ANAO. A tra poco, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Vi aspettiamo anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. perfetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus sarà 219, il numero dei contagi in Italia, quarta e quinta vittima, due pazienti di 84 e 88 anni già ricoverati per altre patologie. Possibile svolta nella ricerca del paziente zero, un agricoltore di Voe Euganeo che era stato a Codogno. A Milano e a Lodi arrivano guanti e mascherine per medici in prima linea, ma il sistema sanitario era pronto a questa emergenza. A effetto giorno il presidente del sindacato ANAO dei medici, Carlo Palermo. Timori per le ricadute economiche, risale lo spread, rallentano le borse europee, Milano giù del 4%. Elezioni americane, Bernie Sanders vince anche le primarie del Nevada, nomination per lui più vicina. Sport, il comitato per le Olimpiadi di Tokyo rassicura, i preparativi vanno avanti, per ora i giochi sono confermati. Minuti di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Come avete sentito dai titoli, stiamo monitorando la situazione, i dati ce li ha appena forniti poco fa il commissario per l'emergenza del coronavirus Angelo Borrelli, e però cerchiamo di fare un punto anche sul livello di preparazione, sulla situazione che c'è nei nostri ospedali per quanto riguarda la tenuta del sistema sanitario nazionale. Con noi Carlo Palermo, segretario nazionale di ANAO Assomed, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, fin qua, diciamo, la tenuta del sistema sanitario nazionale italiano è stato un punto di vanto, un punto anche di serenità per tutti, perché insomma, sappiamo, per esempio, rispetto al caso cinese, che possiamo sicuramente contare su un sistema efficiente. Però intanto sembra confermarsi che l'epicentro, il focolaio dell'epidemia sia stato proprio l'ospedale di Codogno, almeno uno degli epicentri. Un piccolo ospedale, e sappiamo che tante volte i piccoli ospedali vanno tenuti sotto osservazione, da questo punto di vista forse più che i grandi ospedali. Poi stamattina, a dire la verità, a Palermo è arrivata la notizia dei medici di Milano e di Lodi che hanno confermato che sono in arrivo adesso le mascherine per i medici. Io non so questo che livello di allarme possa procurare, si tratta di una dichiarazione abbastanza così in sordina, però io le chiedo molto apertamente: eravamo preparati, il sistema sanitario nazionale, i medici e gli ospedali italiani sicuramente sono preparati, ma c'era il protocollo, le attrezzature, guanti, mascherine, tute per tutti? Ma evidentemente in alcune realtà no, per il semplice fatto che siamo stati costretti a chiudere nel Veneto, qualche problema anche in Lombardia, in intere strutture, perché evidentemente non vi erano le organizzazioni tali da poter far fronte all'arrivo di casi infettivi, nel senso di pazienti certamente non riconosciuti, che sono stati ricoverati in reparti ordinari, e questo ha creato il problema, perché ora quegli ospedali, appunto, gli operatori, le strutture che sono venute in contatto con il caso vanno messi in quarantena. Il nostro allarme è relativo proprio a questo problema, cioè ci siamo preoccupati molto della fase territoriale, giustamente. Poco della fase ospedaliera, forse. No, della fase ospedaliera. Senta, ma lo so che è difficile rispondere a questa domanda, però lei tra le righe lo ha già detto. Si sarebbe potuto reagire in maniera diversa all'ospedale di Codogno? Certamente, perché la situazione è nota da tempo, va bene? Non erano a disposizione i cosiddetti dispositivi di prevenzione individuali, che sono dei kit costituiti da mascherine apposite, da guanti, da camice monouso, da occhiali, per poter controllare i pazienti che presentavano segni di infezione delle alte vie aeree. Senta, Palermo, mi scusi, chiara la sua risposta. A proposito delle dotazioni dei medici, no? Si è parlato di guanti e di mascherine soprattutto, però noi abbiamo visto, per esempio, nelle immagini che arrivavano da Wuhan, spesso e volentieri, però io non sono in grado di specificare in che condizioni, di che tipo di situazioni si parlasse, i medici, il personale ospedaliero con le tute, con i veri e propri scafandri. Questo in Italia non sembra di averlo visto dalle immagini che sono circolate. Invece, che notiziale su questo? Cioè, quella sarebbe la prassi? Quello sarebbe il livello di tutela? Dipende dai casi che noi affrontiamo. Ovviamente ci vuole uno standard minimo che va garantito. Va bene. Dopodiché abbiamo il problema di ricoverare pazienti infetti da coronavirus e che magari presentano condizioni critiche che richiedono ricoveri in ambienti adatti. Uno dei problemi che andrebbe, secondo noi, affrontato è che il 5% dei pazienti infetti hanno condizioni cliniche gravi. Gravi, certo. Quanto noi parliamo di 200, 300, 400, 500 pazienti positivi al coronavirus, sono situazioni che gli ospedali possono affrontare. Ma quando cominciamo a parlare di migliaia di casi, va bene, quel 5% di migliaia di casi comincia a diventare un numero tale che il numero tale fa saltare tutte. Ma il problema che è più importante è che noi siamo in una condizione di come dire, depauperamento del personale, che mancano, come abbiamo ricordato più volte, 50.000 tra medici, infermieri, operatori sanitari, e soprattutto sono stati ridotti anche i posti letto, per cui noi abbiamo la necessità di cominciare a pensare a un incremento dei posti letto, a un incremento delle dotazioni organiche, a un incremento della tecnologia, perché i problemi che hanno questi pazienti sono problemi respiratori, per cui ci vogliono bisogna avere a disposizione ventilatori, ventilazione non invasiva, invasiva, oppure strutture ancora più sofisticate, tecnologia più sofisticata che hanno nei grossi centri come l'ECMO. Bisogna quantomeno cominciare a pensare a questa fase ospedaliera, forse troppo dimenticata finora. Grazie Carlo Palermo, segretario nazionale di ANAO Assomed, l'Associazione Nazionale dei Medici Italiani, per questo punto. Insomma, vale la pena sottolinearlo proprio adesso. Avete sentito, mancano 50.000 persone nel personale complessivamente negli ospedali italiani, proprio in questo momento in cui si chiede uno sforzo aggiuntivo giustamente a tutti quelli che lavorano negli ospedali, forse da parte del governo, dal punto di vista del Ministro della Salute e insomma anche del Presidente del Consiglio, del governo, insomma, varrebbe la pena, sarebbe il caso di sentire un annuncio forse proprio in questo momento, in questo senso, così diciamo per evitare, come ha detto lo stesso Conte, panico e allarmismo. Saremmo tutti più tranquilli se sapessimo che in tutti gli ospedali ci sono tutte le figure che necessitano, con tutte le dotazioni che servono nell'ordinario ma anche e soprattutto nello straordinario. 13:24, continuiamo a parlare della situazione per quanto riguarda il coronavirus, perché la vita di molte persone sta cambiando, che si tratti di una emergenza grave o meno grave, perché su questo non entro, ma le opinioni soprattutto sui social si sono scatenate ancora nelle ultime ore. Ricordiamo solo che il tasso di mortalità di questa coronavirus, dati ufficiali, è circa il 3%, quindi 30 volte di più dell'influenza di stagione, per dare una idea. Dopodiché, come si vive a Milano tra negozi vuoti, forse case piene perché non si va a scuola e forse anche a lavorare? Metro e treni mezzi vuoti, udienze nei tribunali a porte chiuse, farmacie piene, ma tutti in ufficio o comunque al lavoro da casa. Sono gli effetti a Milano delle ordinanze sul coronavirus e della conseguente chiusura di scuole, università, musei, cinema e così via. Dopo l'assalto ieri sia nei supermercati sia online, oggi la situazione sembra tornare alla normalità, con Esselunga che aumenta produzione e rifornimenti. Il messaggio del sindaco Giuseppe Sala. Piuttosto che pensare di correre nei supermercati ad accaparrarsi alimenti, forse ecco, spendiamo del tempo per prenderci cura di quelli più fragili, i nostri anziani. E le aziende implementano i protocolli sanitari, lo smart working, lo strumento più usato, soprattutto nei 10 comuni dell'Odigiano, dove sono in vigore le misure restrittive. Così Giampiero Alboni, segretario Wilca Unicredit. Per quanto riguarda l'area rossa, ci sono state ovviamente le chiusure delle filiali e quindi i dipendenti. sono in permesso retribuito. Tutti coloro che erano nella zona e che sono passati nella zona ma non direttamente collegati hanno avuto la possibilità di lavorare in smart working. Per tutte quelle che sono le persone che hanno situazioni particolari, pregresse, si è comunque consigliato di utilizzare sempre questi strumenti tecnologici oppure di mettersi in permesso retribuito. Sempre per Unicredit possono lavorare da casa anche i dipendenti delle sedi milanesi, ovvero 1.000 a Lampugnano e 3.000 in Gaiolenti. Smart working per Enel, Eni, Saipem e Snam. E per le aziende il governo apre alla concessione della cassa integrazione ordinaria. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:27 minuti, un altro piccolo aggiornamento. Vi abbiamo detto che la frontiera del Brennero è riaperta dopo uno stop di ieri, così come anche altri paesi europei, a cominciare dalla Germania, hanno detto frontiera aperta con l'Italia, non c'è nessun problema, si può transitare tranquillamente dall'Italia, che in questo momento è il terzo paese per contagi di coronavirus nel mondo. Ebbene, c'è una dichiarazione di poco fa invece il ministro della sanità israeliano che ha consigliato agli israeliani di non recarsi in Italia. È una tra le tante notizie che emergono proprio in queste ore a proposito del coronavirus. 13:28 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, siamo anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, sala 219, il numero dei contagi in Italia, quarta e quinta vittima, due pazienti di 84 e 88 anni già ricoverati per altre patologie. Possibile svolta nella ricerca del paziente zero, intanto è un agricoltore di Euganeo che era stato a Codogno in corso gli accertamenti. I timori per le ricadute economiche pesano sulle borse europee, risale lo spread, Milano affonda del 4%. Elezioni americane, Bernie Sanders vince anche le primarie del Nevada, nomination più vicina. Sport, il comitato per le Olimpiadi di Tokyo rassicura, i preparativi vanno avanti, per ora i giochi sono confermati. Stop invece al campionato italiano di pallavolo. Il punto di Alberto Orioli. L'epidemia, anche informativa sul coronavirus, ha creato, tra le altre cose, un effetto glaciazione sull'economia. Le borse di tutta Europa oggi crollano sull'idea che l'Italia sia diventato l'epicentro nel vecchio continente. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha già annunciato che l'effetto virus potrebbe costare al nostro paese lo 0,2% del PIL, tra l'altro in un momento in cui l'economia è già in difficoltà per il rallentamento della produzione industriale e per il blocco degli ordini all'estero. È evidente che se la situazione dovesse protrarsi, verrebbero annullati tutti i margini di manovra che ha il governo per realizzare riforme con un costo, come sarebbero quella del fisco o quella della previdenza. È il momento di affidarsi alla scienza, che però farebbe bene anche a parlare con una voce sola, ma è anche il momento di immaginare che siamo di fronte alla necessità di vivere una normalità razionale e accorta. La corsa ai rifornimenti alimentari, ad esempio, è esattamente ciò che non va fatto. Le possibilità di lavorare in remoto e a domicilio sono molto superiori che nel passato. Il governo poi sta predisponendo forme di indennizzo le più estese possibile. L'economia avrà un contraccolpo inevitabile, ma l'esercizio del buonsenso aiuterà a non far peggiorare le cose.